sempre come vuoi. E tu lo sai, e tu lo sai, ma qualcuno deve farlo. E tu lo sai, e tu lo sai, e quel qualcuno sia noi. Scaviamo fra lo sporco e i rifiuti che stanno tutti intorno. Ecco perché basta un colpo d'occhio per capire che quello che tu butti poi magari serve a me. E tu lo sai, ma qualcuno deve farlo. E tu lo sai, e tu lo sai, non è sempre come vuoi. E tu lo sai, e tu lo sai, ma qualcuno deve farlo. E tu lo sai, e tu lo sai, che quel qualcuno siamo noi. Continuiamo a lavorare, cresceremo sempre più, mentre i gatti polleggiati a croccantini mandan giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà, il momento si avvicina, presto sarà nostra tutta la città. E tu lo sai, ma qualcuno deve farlo. E tu lo sai, e tu lo sai, non è sempre come vuoi. E tu lo sai, e tu lo sai, ma qualcuno deve farlo. E tu lo sai, e tu lo sai, che quel qualcuno, e quel qualcuno siamo noi. E tu lo sai.